Allora, 12 e 28 entriamo insomma nel vivo della fine della mattinata di Radio Onda Rossa. Abbiamo ospite alcuni compagni dei Clash City Workers che accompagnano oggi Lauren Garner, che intanto vi apro i microfoni così possiamo anche salutarci. Benvenuto qui in radio. Loren è un compagno dagli Stati Uniti che fa parte di un collettivo che si chiama Insurgent Notes, insomma, che ha un'analisi abbastanza anche interessante su diverse tematiche. Questo collettivo ha anche una rivista online che appunto si chiama insurgentnotes.com, questo è il sito da cui, se volete, potete ovviamente anche leggere. Tra l'altro moltissimi articoli sono anche tradotti in altre lingue, quindi una cosa che mi ha colpito molto quando sono andata poi a leggere alcuni contributi. Con lui cercheremo di fare anche una discussione un po' più larga su quella che è la situazione in questi ultimi mesi negli Stati Uniti, a che punto è insomma il movimento dopo i vari occupai, i riots che ci sono stati in diverse città statunitensi, gli ultimi a Baltimora dopo l'uccisione, l'ennesime uccisioni da parte della polizia. Insomma, intanto ti dico buongiorno, benvenuto qui a Roma. Lauren parla molto bene italiano, quindi abbiamo la fortuna di insomma di non aver bisogno di traduzione. Non sono sicuro, ma abbiamo un'ora? Sì, un'oretta circa, sì. Okay. Vorrei cominciare con 8 o 9 punti importanti e poi possiamo entrare in una discussione più precisa. Vorrei cominciare con la farsa elettorale attuale, non perché credo che le elezioni sono importanti, ma ci sono sintomi di cose importante nella società generale, e soprattutto mi sembra che per la prima volta da molti anni c'è una vera dissoluzione del partito centro-sinistra, il Partito Democratico, e il partito centro-destra, il Partito Repubblicano. Per cominciare alla sinistra c'è il fenomeno della campagna di Bernie Sanders. Continua. Di parlare vicino al microfono. Solo questo. Così. Ah, così. Più vicino, sì. Perfetto. Grazie. Va bene. Avete sentito quello che ho detto, sì, prima? Sì. Allora, 6 mesi fa sembrava ovvio che Hillary Clinton sarebbe il candidato per la Casa Bianca dell'anno prossimo, ma adesso non è per niente chiaro, a causa soprattutto della crescita del movimento in favore di questo cosiddetto socialista Bernie Sanders. È un fenomeno che possiamo discutere più precisamente più tardi, ma la sua opposizione a Hillary Clinton ha una base popolare soprattutto delle cette medie. non direbbe che è un risultato diretto di Occupy, ma piuttosto qualcosa, una parte della base di Occupy sicuramente è attiva nella sua campagna. Alla destra, alla estrema destra, c'è anche il populismo di destra di questo Trump, il candidato ultra populista, ultra volgare, razzista, anti donne, anti immigrante, anti omosessuale, tutto quello che volete. E per me, come ho detto all'inizio, per me le elezioni in sé non sono importanti, ma questo fenomeno della della dissoluzione del potere dei due partiti centrali è importante. Allora, e una cosa di più, nella campagna di Trump, diciamo in margine della campagna di Trump, c'è anche una certa rinascita del movimento dell'estrema destra fascista armata, che a causa della popolarità di Trump si sente capace di apparire pubblicamente in un modo che non era possibile durante, diciamo, 10 o 20 anni. È una cosa molto interessante. Il fatto è che l'estrema destra negli Stati Uniti è molto più armata che l'estrema sinistra. Come ho detto, possiamo entrare piuttosto più tardi nei dettagli. Secondo tema è il tema importantissimo, la relazione tra classe e razza nella politica americana. C'è una lunga storia di 400 anni. Ovviamente non posso ripetere tutto quello che ho detto su questo in una intervista in particolare dell'anno scorso, ma il punto essenziale è capire che negli Stati Uniti, alla differenza di diversi paesi europei, non si può parlare di classe senza parlare di razza, perché la classe operaia nella sua maggioranza è stata costituita per una supremazia bianca, e solo da 40 anni, 50 anni dopo i movimenti degli anni 60 che questa dinamica è diventata chiara, ma è molto importante, perché in generale non posso dire davvero, ma mi sembra che tra gli operai bianchi c'è ancora molta gente che si vede piuttosto come bianche che come operai. E questo era molto importante per il movimento recente, soprattutto a Ferguson, perché una cosa molto importante da capire è che 30 o 40 fa Ferguson era una città industriale, e St. Louis, la città più grande al lato di Ferguson, anche era un centro industriale importante, e a partire degli anni 70 e 80 c'era una forte desindustrializzazione di questa regione, come in tutto il centro del paese. E per questa ragione Ferguson è diventato una città di una popolazione nera marginalizzata. E è molto importante da capire per il background del movimento attuale. Ricordiamo magari che a Ferguson, dove ci sono stati i riot a seguito dell'uccisione di un ragazzo afroamericano, quando è stato? Nell'14. Nell'autunno dell'anno scorso. 2014. Sì. Anche a New York c'era una decisione simile di un tribunale, un poliziotto che aveva soffocato un nero nelle strade, e ancora una volta c'era una decisione di non inculpare questo poliziotto, e giusto dopo c'era una dimostrazione di 30.000-40.000 persone. Un fenomeno anche molto interessante. Allora, terzo punto, scioperi operai recente. A partire del gennaio, febbraio, c'era un sciopero di 2 o 3 mesi degli operai nel settore del petrolio, soprattutto nel stato di Texas, ma purtroppo questo sciopero è stato organizzato per il sindacato di modo di fare che gli operai hanno perso. Per esempio quando il sindacato ha organizzato i picchetti di sciopero, c'erano forse 4 o 5 operai a ogni porta di entrata nelle fabbriche, eccetera. Allora i camioni potevano uscire, entrare. Potevano entrare senza problema. E al finale c'era una risoluzione abbastanza segreta, ma no, non ha cambiato niente. Alla differenza di questo sciopero, nei ultimi giorni nel settore automobile e soprattutto a Chrysler, come si dice? Fiat Chrysler. Infatti sì. ti avrei chiesto di questo, infatti. Sì, sì. C'era un voto di tutti gli operai, mi sembra che c'erano come 50.000, 100.000, con un rifiuto viscerale e integrale del contratto offerto per l'azienda. E dopo siccome noi abbiamo la gemella, no, della Chrysler qui in Italia, la Fiat ha creato un precedente abbastanza importante per le future generazioni che entreranno a lavorare alla Fiat, e un precedente per altri lavoratori, che è quello di sciogliere completamente il rapporto tra l'impresa e lo Stato tramite la contrattazione nazionale, l'impresa e i sindacati confederali, quelli più rappresentativi, rifiutando la contrattazione nazionale e decidendo di applicare un contratto che praticamente è un contratto quasi tra il singolo lavoratore e l'azienda. Ti volevo chiedere, visto che tu hai introdotto questo tema degli scioperi appunto recenti alla Chrysler, se questo tipo di contrattazione proposta era molto simile a quella che si sta proponendo in Italia. Sostanzialmente, se i lavoratori italiani, accettando loro malgrado, cioè senza avere altre opzioni, questa scelta, stanno facendo una sorta di dumping nei confronti ovviamente dei loro compagni, diciamo così, statunitensi. Non conosco molto bene la situazione qua in Italia, ma mi sembra che è abbastanza diverso della situazione negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti i contratti si fanno a livello non locale, ma solo per industria, e a livello nazionale non esiste, sono certo così importante. Azienda. Per la singola azienda, non per il settore. Sì, la singola azienda. Per ma in questo caso l'azienda è molto grande. Molto grande. Ci sono tre aziende nel settore automobile importante: General Motors, Ford e anche Chrysler, Fiat. E un'altra strategia del management del settore automobile e naturalmente di negoziare contratti individui con ogni azienda, invece di fare un contratto generale come hanno fatto 30 o 40 anni fa. Allora finora questo rifiuto del contratto, c'era un secondo contratto che non era niente diverso del primo, che anche è stato rifiutato, ma finora non c'era sciopero. È possibile che ci sarà un sciopero selvaggio, ma il sindacato del settore automobile è molto intelligente in manipolando la possibilità di un sciopero selvaggio generale contro il contratto, ma vedremo. Posso dire una cosa, quindi comunque diciamo che negli Stati Uniti c'è già un livello di contrattazione che è aziendale, che è la stessa cosa che la Fiat ha fatto qua uscendo da Confindustria e proponendo cioè, e contrattando direttamente con i propri lavoratori o con i sindacati che riteneva degli interlocutori possibili, ed escludendo la FIOM ad esempio. No, è che però mi sembra interessante il fatto che in questo caso appunto l'azienda, la Chrysler Fiat, ha proposto un accordo insieme al sindacato con ai lavoratori, e i lavoratori hanno votato no due volte, anche se ancora adesso non c'è stato uno sciopero, quindi mi sembra di capire. E quindi si vedranno gli sviluppi, sono da seguire gli sviluppi nei prossimi giorni, immagino, nelle prossime settimane di questa notizia. Vedremo. Ok. Come ho detto, il sindacato ha una lunga esperienza in combattendo i scioperi selvaggi, controllando la base operaia. Non so. Beh, se anche in Italia funziona sì. Così. Sì. E quindi è una cosa che conosciamo abbastanza da vicino. E vogliamo fare una piccolissima pausa musicale e poi torniamo in voce. Io, Uta Philips e Anne Di Franco.